E questa che avete appena sentito era La Casa della Justicia, cantata dalla cantante militante honduregna Carla Lara, questa compagna che è stata qui settimana scorsa. Abbiamo fatto in tempo ad intervistarla e l'intervista che abbiamo registrato settimana scorsa la manderemo in onda quest'oggi, quindi la compagna non è qui presente con noi e proveremo con le nostre grandi conoscenze della lingua spagnola a tradurre in diretta l'intervista che abbiamo registrato settimana prossima. Ci perdonerete se sbaglieremo qualcosa, ma il bello della diretta, anche nella replica riusciamo a sbagliare, anche nella differita riusciamo a mantenere il bello della diretta. Quindi andiamo avanti subito con l'intervista e durante la trasmissione sentiremo altre canzoni di questa compagna. Naturalmente si parlerà dei movimenti sociali che ci sono oggi in Honduras. Tanti sono contro dei progetti di estrazione mineraria che vogliono essere portati avanti nel paese. C'è anche tutto la repressione che va avanti da prima, ma sicuramente è aumentata dopo il colpo di Stato del 2009, colpo di Stato che abbiamo commentato da questi microfoni. Chi volesse andarsi a rileggere quello che successe ormai 4 anni fa può andare sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org e ci sono, oltre alle vecchie trasmissioni, anche un dossier proprio sul colpo di Stato in Honduras. Ora però andiamo avanti con l'intervista, che è molto lunga, non credo riusciremo a mandarla in onda tutta quest'oggi, ma ci riserviamo di farlo nel caso il prossimo lunedì, sempre dalle 16:30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ok. Bueno, Carla Laura, gracias por estar aquí. Usted appartenece alla Rede Nazionale Defensora de Derechos Humanos de Honduras, appartenece a Feministas en Resistencia y Artistas en Resistencia, que surgieron después del golpe de Estado en Honduras. ¿Puede presentarnos un poquito el trabajo de estos grupos? Bene, Carla Lara viene introdotta dall'intervistatore, è un'attivista che fa parte della rete internazionale in difesa dei diritti umani in Honduras, nonché una femminista e un'artista contro lo scorso golpe del 2009. Se ci può un po', insomma, presentare un po' il suo lavoro. Agradecer un montón a Onda Rosa este encuentro. Y a ver, platicar de Honduras es siempre es partir del golpe, ¿no? No se puede hablar de Honduras si no se parte de ahí. Parlare di Honduras significa partire dal colpo di Stato, non si può parlare di Honduras senza partire da quel momento. Aunque hay un montón de organizaciones y de movimientos que tienen como vida mucho más. Yo a veces pienso, anche se ci sono organizzazioni che hanno una storia più lunga che inizia prima del colpo di Stato, che uno dice sempre desde el golpe, pero hubo un hecho político importante en el 2008 que fue la huelga de fiscales contra la corrupción, que realmente es un antecedente político y de movilización bastante interesante, bastante aleccionador y que movió a la gente, ¿no? Ad esempio, lo sciopero dei fiscales nel 2008 fu precedente al colpo di Stato e ebbe una grande mobilitazione che mobilitò le persone prima del colpo di Stato. En ese año previo al golpe. Entonces las mujeres igual, las mujeres y las feministas particularmente estábamos como juntas alrededor de la lucha contra la pastilla anticonceptiva de emergencia. Ad esempio, anche noi femministe, noi donne, eravamo attive prima del colpo di Stato. C'era stata una grande mobilitazione per la difesa della pillola anticoncezionale di emergenza. Perché si aveva decretato y penalizzato l'uso e la distribuzione e il dare a conoscere la pastilla, calificandola di abortiva. perché era stata resa, era stata limitata la circolazione, l'uso e la distribuzione di questa pillola qualificata come abortiva. Ricordiamo che nella maggior parte dei paesi latinoamericani, praticamente tutti tranne Cuba e l'Uruguay, l'aborto è illegale nella maggior parte dei casi, in alcuni stati è legale solo in casi di rischio di salute per la donna. O in caso di stupro, mi sembra, forse in altri. In alcuni casi sì. Anche nel mondo e scientificamente sta provato che non è abortiva. La pastilla del día después, che le chiamano, no? E sarebbe appunto la pillola del giorno dopo. Entonces, nosotras nos juntamos varias organizaciones feministas y varias mujeres independientes. Yo nunca he sido del feminismo institucional, nunca he tenido pues nunca he estado desde ahí en el feminismo. E quindi molte femministe si sono unite in quell'occasione per questa lotta, e anche lei, che non aveva mai appartenuto al cosiddetto femminismo istituzionale. De hecho, conocí el feminismo un poco a partir de esas luchas y nos juntamos, hicimos una campaña de incidencia, logramos que el presidente José Manuel Zelaya vetara la ley. E quindi io, insomma, racconto la sua esperienza. Ho conosciuto le organizzazioni femministe a partire da questa battaglia appunto per la pillola del giorno dopo, e per fare pressione verso l'allora presidente Manuel Zelaya per mettere il veto alla legge, verdad, y poder tener, verdad, el derecho al uso de la PAE. Y cerquita de eso vino la cuarta urna y cerquita de eso vino el golpe de Estado. E appena dopo questa lotta, che poi ottenne che il presidente Zelaya mettesse il veto alla legge, arrivò la quarta urna, che era, diciamo, la scintilla, la causa scatenante del colpo di Stato, perché in questa quarta urna gli honduregni avrebbero eletto una nuova assemblea costituente che appunto creasse una nuova costituzione, che in Honduras è invece ancora in vigore, la costituzione fatta negli anni 80, scritta dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti subito dopo la fine della dittatura militare, e subito dopo venne il colpo di Stato. Questa la consulta che doveva chiedere agli honduregni se volevano l'introduzione di questa quarta urna nelle elezioni generali, non ci fu, perché il giorno in cui si doveva tenere ci fu il colpo di Stato. Entonces, nosotras ya estábamos como en algunos niveles de coordinación alrededor de esos dos temas, la cuarta urna. Quindi noi femministe stavamo in un livello di organizzazione attorno a questi due temi. Attorno ai due temi della la quarta urna e della pillola del giorno dopo. Urna y las PAE, y en eso viene el golpe, ¿no? Y entonces viene el golpe y nos instalamos, ¿no? En resistencia y contra el golpe de Estado. E quindi venne il golpe e ci organizzammo in resistenza a questo. Sintetizziamo un po', no? Y fue un poco difícil, ¿verdad? Porque el término feministas es un término que despierta un poco de resistencia dentro de las resistencias, ¿verdad? E fu difficile perché il termine femminista fa nascere un po' di resistenza all'interno della resistenza stessa, all'interno di quello che è stato il fronte di resistenza contro il colpo di Stato, quindi l'organizzazione che combatteva e mobilitava contro il colpo di Stato. Hay personas que no terminan, hombres y mujeres, ¿no? Que no terminamos de entender de qué se trata el feminismo, y pues como pasa siempre, ¿no? El patriarcado se encarga de fijar en las personas algún tipo de prejuicios, ¿no? Y pensar, no, las feministas son viejas histéricas, ¿verdad? Que insomma, sta raccontando i problemi. Succede che il patriarcato instauri nella testa delle persone, anche dei compagni di coloro che sono in resistenza, una serie di pregiudizi riguardo la figura delle donne, e quindi le femministe sarebbero delle vecchie isteriche. Ha ido muy mal en la vida y por eso no quieren a los hombres. Che gli è andato molto male nella vita e per questo non vogliono gli uomini. ¿verdad? Y no plantear, ¿verdad? Es también un poco normal que las resistencias existan, porque el feminismo toca privilegios, privilegios históricos, ¿no? De por ser hombres, ¿no? E questo è normale che ci siano delle problematiche all'interno della resistenza, perché il femminismo tocca dei privilegi storici, nell'essere uomini. Como es difícil a veces hablar de racismo, ¿no? Porque también toca privilegios de una, ¿verdad? De una raza sobre otra. Come anche il razzismo, che tocca i privilegi di una razza sopra un'altra, rispetto a un'altra. Entonces, ahí vamos las feministas un poco sabiendo, previendo que va a costar instalarnos, pero instalándonos. Y por lo menos para el movimiento feminista latinoamericano, con sorpresas, ¿no?, respecto a nuestras capacidades de poder llevar en la agenda política qué cosas son las que a nosotras las mujeres nos... ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotras decimos, bueno, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. E quindi loro riuscirono comunque a avere un ruolo attivo nella resistenza, con forse uno slogan, no, che dice alla fine nessun golpe di Stato, ma nessun golpe sulle donne, cioè sì. Nessun colpo di Stato, ma nessun colpo contro le donne. Come facciamo per meternos en la agenda y differenziare los temas que a nosotras políticamente nos surgen? No decimos que los otros no nos importen, ¿verdad? Quindi riuscire a mettere nell'agenda i temi che per noi stesse sono importanti. Questo non significa che gli altri non importano. Lo che pasa è che esos che nos importan, eso, o esos che nos surgen, sempre han estado postergados por los que nos importan. Quello che succede, che è successo sempre, è che i temi che per noi sono importanti, sono urgenti, sono stati sempre posticipati al momento in cui i temi che a noi importavano, noi come movimento femminista, no, come movimento di sinistra rivoluzionaria, eccetera, erano considerati prioritari. Quindi i nostri temi sono sempre stati posticipati al momento in cui avremmo vinto. Questo nella tradizione dei movimenti rivoluzionari. Realtà, no? E abbiamo stato, verdad, tratando también de visibilizar la forma en que diferenciada en la que recibimos la violencia. Abbiamo cercato di rendere visibili le forme differenziate in cui arriviamo a subire violenza. Verdad, cuando nos insertamos en las luchas. Y al mismo tiempo, lo que te contaba, yo también hago música desde hace un tiempo. Y allo stesso tempo, racconta, io faccio musica da un po' di tempo. Abbiamo appunto ascoltato prima un pezzo di también nos organizamos en otro espacio las personas trabajadores y trabajadoras del arte. E ci siamo organizzati quindi anche in altri spazi, noi lavoratrici e lavoratori dell'arte. Y nos llamamos al principio artistas contra el golpe. Y luego nos cambiamos a artistas en resistencia. Ci chiamiamo all'inizio artisti contro il golpe e poi artisti in resistenza. Ambos espacios políticos ya no tienen vida orgánica como fue en el primer tiempo, ¿no? Que había all'inizio quello spazio politico non aveva proprio un'organizzazione. No, dice in questo momento in questo momento questi due spazi politici non hanno una vita organica, non sono attivi come lo erano nei primi tempi, quando appunto esisteva ancora il fronte resistenza contro il golpe, che era avvenuto da poco. Sì, nos reuníamos, preparábamos acciones, había una discusión también política. Eran muy ricos los espacios, muy enriquecedores. A quel tempo del golpe, parliamo del 2009, come era appunto un clima di forte mobilitazione, preparavano assemblee, incontri, e era molto vivo e vitale la situazione politica. Pero como pasó con un montón de organizaciones, ¿no? ¿Cómo sostenerse cuando ya no era lo urgente, que era revertir el golpe? Y cuando había también como ese sinsabor, ¿verdad? Pucha, ¿verdad? No se pudo revertir el golpe, ¿no? Los plazos cambian, ¿no? E quindi questo tutto avveniva quando ancora era urgente sapere come invertire il golpe, come ripristinare la situazione antecedente, e questo poi anche il sapore amaro che ha lasciato in bocca il vedere che il golpe invece veniva istituzionalizzato e non veniva ribaltato. Y bueno, y también los intereses de las personas van cambiando. Entonces, también un poco quizás, porque una cosa que fuimos percibiendo era la cantidad de compañeras que para empezar ni siquiera se reconocen como defensoras siéndolo. Entonces, no. E una cosa che andavamo ottenendo era che la quantità di compagne che non si sentivano difensore, ma essendo avendo questo ruolo ma non se lo riconoscevano. Nos organizamos en una red de defensoras que yo creo que con primera instancia busca eso, que en las organizaciones, sobre todo en las mixtas, las compañeras reconozcan lo que ellas hacen lo que ellas hacen las califica como defensoras. E costituimmo quindi un'associazione, una rete di difensore, come si può dire in Italia, difensore del, sì, sì. Defensoras de los pueblos, per appunto qualificare il loro lavoro di donne rispetto alle altre organizzazioni miste. Encontras muchas compañeras, por ejemplo, en los campamentos de la UAN, que dicen, no, yo solo cocino y yo solo hago turno en el día para que no, pero no, yo no. Contro tutte le altre situazioni, ad esempio nella Guan, nel Bajo Aguan, dove sono stati vari accampamenti contro dei progetti, no, di sfruttamento, di riappropriazione delle terre, diciamo, del latifondo, contro il monocultivo, sulla monocultura, e dove spesso molte compagne dicevano semplicemente, no, io cucino solo, faccio i turni, non ho un ruolo attivo all'interno delle organizzazioni contadine o della resistenza. No estoy integrada a la lucha, ¿verdad? Y entonces, yo no soy defensora. Eso es un trabajo previo, ¿no? Y luego todo el trabajo de acompañar a quienes efectivamente, hay muchas compañeras que tienen, que sí lo reconocen y que tienen incluso puestos de decisión, ¿verdad? De política, y que están en mucho riesgo por su trabajo. E poi tutto il lavoro di accompagnamento alle compagne che ricoprono anche dei ruoli di decisione, dice, no? di dirigenza, di responsabilità all'interno delle organizzazioni, che per questo sono anche molto a rischio. Ricordiamo che in Honduras ci sono stati numerosi omicidi di rappresentanti delle organizzazioni sociali, sia prima ma soprattutto dopo il colpo di Stato. La defensoria. Entonces desde la red hacemos eso. Y otras cosas, ¿verdad? Otras cosas como tratar de ir dentro de los movimientos de nosotras, en un principio solo los espacios de mujeres, pensando en cómo hacemos activismo y militancia política, bueno, de una manera en la que también haya un espacio para nosotras mismas, ¿no? Donde no sea tan terrible, pienso, o como fue, digamos, no terrible, sino como fue en los ochentas, que era aquí nos vamos a morir, y el más sacrificado y la más sacrificada es la más revolucionaria, y la que no duerme es la que se va, ¿verdad? Entonces tratando como de cambiar. E quindi, no, dice, questo è il lavoro che svolgono come questa rete di difensore del popolo, cioè accompagnare le compagne che sono in difficoltà, ma anche battersi all'interno delle organizzazioni della resistenza per ottenere uno spazio per le donne, dove discutere di come ci si organizza, qual è il ruolo appunto delle donne. Poi non ho capito, facevo anche contro il modello che invece dice era quello soprattutto della militanza negli anni Ottanta, dove era importante sacrificarsi al massimo e quindi rinunciare anche a raggiungere la propria gioia individuale, diciamo così, poi all'interno sempre della collettività, ma nel senso che la militanza come sacrificio e come sofferenza. Fare esos martirologios y pensar que también los activismos son para toda la vida, porque no nos va a alcanzar la vida para ver las cosas que queremos cambiar, y entonces hay que prepararnos ¿verdad? Para estar y estar bien y tratar de estar sanas. Y sobre todo tratar de estar sanas emocionalmente. Porque se hay una... E quindi, visto che la militanza è per tutta la vita, dobbiamo prepararci bene per stare bene, per essere sane e soprattutto essere sane emotivamente. Una cosa che il golpe nos ha movido mucho son las emociones, ¿no? Vivimos en luto tras luto tras luto. Un'altra cosa che il golpe ha causato sono appunto le emozioni, invece che viviamo in lutto e continuiamo a vivere attraverso questo lungo lutto dal 2009. Io credo che è molto umano e è molto molto umano, però penso che sia molto politico riconoscere che stiamo molto quebradas. Penso che è politico riconoscere che siamo bruciate, la traduzione letterale, poi non abbiamo tempo per cercare una traduzione migliore. Molto scosse. Sì. Molto... Siamo molto rotte, decimos nosotras. Siamo rotte. E come vamos a trabajar eso? Io quiero pensar che l'arte e che il femminismo me van a decir por dónde. E quindi io dove andiamo, io credo che l'arte e come facciamo a superare tutto questo, e lei crede che l'arte e il femminismo l'aiutano a farlo. E prima dell'altra domanda mandiamo un'altra canzone della compagna Carla Laura, qui sempre a Latinoamericana sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Escapado Ed eccoci di nuovo in diretta, proseguiamo con l'intervista a Carla Lara sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con Latinoamericana. Ricordiamo Carla Lara, abbiamo appena potuto ascoltare un altro pezzo, attivista in resistenza per i diritti umani, femminista e attivista in Honduras. Bueno, antes has hablado de la lucha de los campesinos del agua, una lucha que encuentra una muy fuerte represión con... Bueno, prima hai parlato della resistenza dei contadini della Guan, una lotta che ha incontrato molta repressione negli ultimi anni da parte dello Stato. Decenas de campesinos matados por sicarios de los latifundistas. Ci sono stati decine di contadini uccisi dai sicari dei latifondisti. Y cuál es, cómo es la situación ahora en el Aguán y cuáles son las otras luchas que se están desarrollando en el país. Bene, qual è la situazione adesso nell'Aguán e quali sono le altre lotte che si stanno sviluppando nel paese? No, la situación del Aguán no ha cambiado casi en nada. La situación del Aguán no es cambiada prácticamente per niente. Los desalojos en las comunidades se siguen dando, los niveles de represión. Gli sgomberi nelle comunità continuano a esserci, il livello della repressione. Son cada vez peores, la presencia militar, ¿verdad? Satruch, yo ya no sé por qué número vaya, debe ir como por el 4, ¿va? Satruch. La repressione militare a volte anche peggiore degli anni passati, dice, aumentano forse anche il numero di crimini contro i campesini in resistenza. Están en el 3 todavía, pero ahí están, ¿no? Que son fuerzas además con presencia, mucha presencia israelí, colombiana y norteamericana. I sicari sono i paramilitari, c'è tra loro una grande presenza non solo honduregna ma anche israeliana, colombiana e nordamericana. Verdad. Y en esa mezcla entre el terrateniente Miguel Facuseno, que es el mayor responsable del asesinato de más de 100 compañeros ya. E in questo Miguel Facuseno, che è il maggior latifondista nella zona, il maggior responsabile delle uccisioni di molti compagni, di molti contadini. Ormai più di 100 uccisi. E también entre el sicariato y entre el narcotráfico y entre paramilitares y entre militares y en esa cosa que ya no se sabe dónde empieza una y termina la otra. E tra quindi questa ci sono connessioni, no, con i paramilitari, con il narcotraffico, con sì, una mischiata di tutti questi settori che non si capisce mai dove finisce uno e inizia quell'altro. Lo che hace come bien difficile, verdad? Y lo che hace además también bien fácil, pensemos, para ellos instalar el discurso de que eso, de que son pleitos internos, ¿va? Que la gente se está robando la fruta y que por ahí hay revanchas y que las muertes responden a eso, ¿no? È facile per loro, per i latifondisti, dire che i contadini stanno rubando la frutta, stanno rubando da mangiare e vendere quindi questi assassini che compiono contro i contadini in resistenza, espropriati, cacciati dalle proprie terre, chiamarli come ladri, semplici ladri. Mediaticamente en la prensa de la derecha, que pues tiene su impacto, no, en la gente, en la población en general. Questa è tutta la retorica dei giornali di destra che ha i suoi effetti sul resto della popolazione. Si è instalato molto ese discorso, no? Ellos son gente, dicen, que no ha aprovechado las reformas agrarias que no han sido una sino varias. Queste sono tutte gente, i contadini in resistenza, che non hanno accettato la riforma agraria. Sì, nella propaganda della destra dicono non hanno approfittato della riforma agraria che già c'è stata tante volte, e quindi le rivendicazioni che fanno in realtà sono solo pretestuose, perché già ci sarebbe stata secondo la propaganda di destra. Y además el acuerdo último que hubo, ¿no?, con la firma, ¿verdad?, esta de este pacto en la que tuvo que ver pues ya mucho, pues, César Ham ya estando en la, en, ¿verdad?, a cargo del Instituto Nacional Agrario, en la que el gran triunfador fue Miguel Facuseno, y en la que el compromiso de entrega de titulación no se ha cumplido de parte del Estado, ¿no? Dice anche l'ultimo accordo che in realtà il grande vincitore è stato Miguel Facuseno, il maggiore latifondista, e la consegna delle terre non è stata compiuta da parte dello Stato, la consegna delle terre ai contadini. Y por otra parte es la impunidad, ¿no? La impunidad en la que sigue sucediendo el asesinato, ¿no? Hay castigo en absoluto, hay casos emblemáticos como la del compañero Antonio Trejo, ¿no? Que... E anche, insomma, la grande impunità che vige per questi grandi latifondisti e per i loro sicari. Hai un caso emblematico che riguarda il nome, non me lo ricordo, Miguel Trejo. Miguel Trejo. Creo que tres días antes de su muerte, de su asesinato, él dijo, ¿verdad?, he sido amenazado, responsabilizo a Miguel Facusé por lo que a mí me vaya a suceder. E che tre giorni prima di essere ucciso aveva responsabilizzato pubblicamente Miguel Facusé della sua futura morte, visto che era stato minacciato già più volte. Y lo mataron, ¿no? Y no hay nadie en la cárcel, no hay ninguna investigación. Su hermano y su hermana que habían tratado de seguir, ¿verdad?, investigando y todo eso, su hermano también fue asesinado, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? Sí. E quindi non è finito nessuno in carcere per questo crimine. E il anche suo fratello che investigava riguardo alla sua morte, che tentava di rendere giustizia per la morte di del fratello, è stato anche egli assassinato. Ninguna respuesta, sin ninguna. Entonces, mientras la impunidad siga siendo la tónica, eso no va a cambiar la situación, ¿no? E fin quando l'impunità sarà questa, non cambierà la situazione. Y bueno, luego ha habido una serie de como de alzamientos territoriales, le llamamos nosotras. Bene, dopo ci sono stati una serie di sollevazioni popolari, come le chiamiamo noi. Sollevazioni territoriali. Territoriali. Sì, ora passa a parlare delle altre lotte che ci sono adesso in Honduras. Y pienso que todo comienza un poco a partir de la resistencia en Río Blanco contra una hidroeléctrica que se... Tutto inizia dalla resistenza nel Rio Blanco contro una diga centrale idroelettrica. Si chiama Guasarca, che pretende represare il Rio Gualcarque. Che si chiama Guasarca, che intende di deviare il fiume Aguasarque. Questa zona è popolata per son comunità ancestrali indigenas, lencas. È una zona abitata da comunità ancestrali di indigeni lencas. Verdad que han sido muchas, son comunidades que pertenecen al COPIN, verdad, que es la coordinadora de pueblos indígenas de Honduras. Molte comunità che appartengono al COPIN, che è l'unione delle comunità indigene dell'Honduras. Y ahí ya van 7 meses de resistencia, de toma de carretera. Da 7 mesi che sono in resistenza bloccando le strade della regione contro questo progetto di una diga idroelettrica. A partir de esa lucha está judicializados la compañera Berta Cáceres, que es la... E proprio per questa lotta sono stati processati la compagna Berta Cáceres, che è la presidente, la portavoce del COPIN, quindi una figura che è stata sempre in primo piano, soprattutto nei giorni del colpo di Stato, proprio perché il COPIN, l'organizzazione indigena dell'Honduras, era una delle organizzazioni più importanti del fronte di resistenza contro il colpo di Stato. E oggi questa persona è in carcere proprio per la repressione seguita alle proteste in questa regione. Coordinadora del COPIN, Aureliano Molina y Tomás Gómez, que son ambos comunicadores de la radio Guarra Jambala, ¿verdad? E anche Aureliano Molina e un altro compagno che sono che fanno parte della radio comunitaria del luogo sono finiti in carcere. I compañeros ahí, miembros del COPIN y varios compañeros del Consejo Indígena. Oltre a vari compagni del Consiglio Indigeno. La compañera Berta Cáceres es la que tiene como su situación más difícil en la parte judicial. A ella se le ha dictado prisión preventiva en un juicio en el que se le acusa a los tres. Aureliano, Tomás y Berta tienen los mismos cargos, ¿no? Usurpación, daño continuado, y el otro cargo es usurpación, daño continuado y coacción, ¿verdad? E diciamo che Berta Cáceres è lei che tiene la situazione processuale più complicata, che è in carcere, ha avuto è tuttora in carcere preventivo, e a lei e anche agli altri tre i reati che le vengono contestati sono l'usurpazione dei territori, nonché un danno continuato, una serie di danneggiamenti continuati. E coazione, quindi la ripetizione del reato. Inducción, que es el otro término. Se fue a juicio, ya de hecho también el juicio ahorita está en el término de apelación. La prima sentenza di primo grado già arrivata, e ora il processo è arrivato al grado di appello. Porque ya fue dictado medidas sustitutivas, que significan que tienen que ir a firmar cada 15 días, que no pueden salir del país, que no pueden acercarse a la toma, a la zona, no a la toma, a la zona de los hechos, dicen ellos, es decir, al plantel. E sono stati condannati a tutta una serie di misure cautelari, ad esempio hanno l'obbligo di presentarsi alla polizia, non possono recarsi nella zona dove vuole essere costruita questa diga. E non possono lasciare il paese. Y eso para el caso de Aureliano y Tomás. En el caso de Berta, prisión preventiva. Situación ante la que Berta se declara perseguida política. Questo nel caso dei due compagni uomini, questo Aureliano e l'altro. Invece di Berta ha subito il carcere preventivo, lei si è dichiarata prigioniera politica. Y pues no reconociendo el delito como tal y no reconociendo a esa autoridad como... non riconoscendo il delitto come tale e l'autorità che doveva giudicarla. Come chi imparte giustizia di alguna maniera responsabile e rispettosa dei convegni internazionali e rispettosa del diritto del popolo indigena, verdad, a suo territorio. Come un'autorità che non rispetta appunto la popolazione indigena, non rispetta i diritti fondamentali degli indigeni e della popolazione locale. E tutte le convenzioni internazionali che proteggono i diritti degli indigeni. Si declara in un precedente, penso io, importante per la lucha. L'azione di Berta è un avviso di che è un atto insurreccional che tiene che stare molto accompagnato del... L'azione di Berta è un avviso, è un atto insurrezionale che deve essere supportato e accompagnato da tante altre persone. Il movimento della solidarietà internazionale, della solidarietà nazionale. Da movimenti, dalla solidarietà internazionale, da quella nazionale. Perché hay que legitimar ese acto insurrezionale. Perché bisogna legittimare quest'atto insurrezionale. Verdad, entonces... allí hay mucho trabajo que hacer en términos de, ¿verdad?, de acompañarlo, de acuerparlo, ¿verdad? Porque c'è molto lavoro da fare, dice, sia da per noi, da un punto di vista della solidarietà internazionale. Esa además es la primera compañera que se le dicta auto, ya tenemos otros compañeros presos políticos. Y ahorita se apeló. Aureliano Molina ya dijo, ya el Ministerio Público dijo que había roto la medida, que había incumplido la medida y que había llegado a la zona donde no podía llegar, cosa que no es cierto. L'organo giudicante ha già accusato Aureliano Molina di aver rotto le misure cautelari entrando nella zona dove non poteva andare, cosa che invece hanno rigettato. Sí, además tenemos la ya Norita Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, que estuvo acompañando el proceso, escribió una carta dirigida a las autoridades del Poder Judicial en la que aclaraba que ella junto a Aureliano Molina había estado en Río Blanco incluso en una misa que se había ofrecido por varios sacerdotes de ahí de esa zona de Occidente. E anche Nora Cortigna, la compagna delle madri di Plaza de Mayo dell'Argentina, ha scritto una lettera per dire che si trovava con questo compagno in un villaggio del Rio Blanco assistendo a una messa e quindi non poteva trovarsi in quel luogo. Tanto non si incumplió la medida y no puede ser, se apeló pidiendo pues que no se le dictara también verdad prisión al compañero Aureliano. Luego hay otros alzamientos en Santa Bárbara, hay importantes alzamientos territoriales. Bene, ci sono state poi dopo altre sollevazioni territoriali, ad esempio a Santa Bárbara. De hecho, la frontera de Río Blanco con Intibucá, o sea, la zona de Río Blanco hace frontera entre Santa Bárbara e Intibucá. La zona che confina fra Río Blanco e un'altra. La zona del Río Blanco in realtà fa frontiera tra Santa Bárbara e Intibucá, che sono due zone dove ci sono stati queste sollevazioni territoriali. E Santa Bárbara, che è un departamento con mucho poder organizativo, pero además con más de 80 concesiones mineras después de bajo este régimen, ¿no? Santa Bárbara es un dipartimento abbastanza grande, ma dove ci sono sono state circa 80 concessioni minerarie a multinazionali sotto questo regime, quindi durante il governo di Porfirio Lobo, che è stato quello che ha seguito il colpo di stato. Este régimen ha otorgado concesiones, la ley cambió también y la ley aprueba la minería a cielo abierto. La nuova legge fatta da questo appunto dittatore dopo il golpe autorizza le miniere a cielo aperto. Verdad, cosa que también es muy muy terrible, ¿no? Para las comunidades, para el pueblo. Y ahí también acciones importantes de alzamiento en la zona norte del país. Hay un lugar específico, se llama La Nueva Esperanza, en el departamento. E quindi ci sono state sollevazioni anche nel nord del paese, c'è un luogo specifico che si chiama La Nueva Esperanza. Il departamento di Atlantida, donde también hay una lucha importante contra una minera. Dove c'è anche nel dipartimento di Atlantida, dove c'è una lotta contro un altro progetto di estrazione mineraria. Y a raíz de esa lucha, otro compañero, Víctor Fernández, que es miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. E all'interno di questa lotta un altro compagno, Víctor Hernández, che fa parte del Movimiento Amplio per la Difesa dei Territori. El abogado defensor en el caso de Berta, Aureliano y Tomás. Che è l'avvocato difensore di Berta e degli altri due compagni di cui abbiamo parlato prima. También ha sido enjuiciado por ser presidente del patronato y por los mismos cargos que está enjuiciada Berta, ¿no? Entonces. E anche lui è stato messo sotto processo con le stesse accuse di usurpazione, di coazione e di danno continuato di cui sono state accusate Berta e gli altri. Es como un cuento surrealista, un poco perverso. È abbastanza surreale, no, che l'avvocato stesso sia indagato per gli stessi reati per cui sta difendendo la compagna Berta. E anche se in Italia, insomma, anche questo non ci siamo fatti mancare in passato. E Zacatecas sigue siendo una zona di resistenza importante. Anche Zacate Grande continua a essere una zona di resistenza importante, quindi vediamo, sta elencando tutti i luoghi di un paese che non si arrende a questi progetti di estrazione mineraria, insomma, per aprire una parentesi, ne parliamo spesso quando parliamo di America Latina, di tutti questi progetti che devastano territori e che incontrano forti resistenze in tutti i paesi sia governati da regimi di destra come l'Honduras, sia anche paesi dove ci sono governi cosiddetti di sinistra o per o che mantengono, al contrario dell'Honduras, una politica estera indipendente nei confronti degli Stati Uniti, come il Perù, come anche in alcuni casi la Bolivia o l'Ecuador. E su questo lei faceva riferimento proprio alla miniera a cielo aperto, che è un qualcosa che è vietato per legge da una serie di accordi internazionali in tutto il Nord America, nonché in Europa, ma in America Latina e in Africa spopola, in quanto diventa il metodo più veloce, più redditizio per le grandi multinazionali, ma più dannoso per l'ambiente e per le popolazioni che abitano nei dintorni. Está la construcción de un muro que le prohíbe a la población el acceso al mar. Son comunidades que viven de la pesca, que viven. E quindi dice a Zacate Grande, dove vogliono costruire questo polo turistico addirittura per impedire l'accesso al mare a una popolazione che vive di pesca, è stato costruito un muro lungo il litorale. Verdad, no solamente perché pues logran vender algo, sino perché su propria subsistenza sta ahí en el mar. Un muro. E quindi la sussistenza di queste persone che vivono di pesca è nel mare, e questo naturalmente gli impedisce di continuare a vivere in quel luogo. Però para que no tengan acceso al mar. Y hay ya son más de 30 compañeros procesados que han hecho resistencia a la construcción del muro. Hay un compañero. E là ci sono altri 30 compagni sotto processo che hanno fatto resistenza alla costruzione del muro. Preso político también, verdad, tiene más. El último comunicado que yo leía la semana antepasada tiene casi el año de estar ya en prisión. E anche lì ci sono prigionieri politici. L'ultimo comunicato che ho letto la settimana scorsa, c'è un compagno che è già da quasi un anno che è in carcere. Son también como las cosas que nos duelen, porque de alguna manera nos quedamos como atrás de la importancia de esos hechos, ¿no? Y creo que también el. E sono anche delle cose che a noi fanno male, perché in qualche modo siamo rimasti anche abbiamo anche lasciato, non prestavo troppa attenzione a questi avvenimenti in passato. El tema de Berta ha movido también otros casos de otros compañeros que son presos políticos y que de alguna. Mentre il caso di Berta ha reso noti anche tutti questi casi che in precedenza avevamo trascurato. Forma, hay que reconocer que no hemos estado reivindicando ni acompañando, ¿no? Y se han ido quedando. Y creo que. E quindi abbiamo lasciato in passato questi compagni, abbiamo mancato di rivendicare la loro liberazione, mentre ora lo stiamo facendo. Lo de Berta ha venido a mover la última el último comunicado de la semana pasada de la asamblea de los pueblos indígenas y negros que iba, los nombraba y vuelve a poner en la agenda nuestra como tiene que ser, ¿no? Para no olvidarnos de ellos, ¿verdad? Ni de ellas. E quindi proprio anche nell'ultimo comunicato dell'Assemblea Generale dei Popoli Indigeni e Negri, insomma di colore, afroamericani, ha proprio rivendicato l'importanza di tutti i prigionieri politici, di tutte e di tutte le persone che si trovano in carcere per motivi politici. Y así, ¿no? De hecho hay un llamado al alzamiento territorial porque el modelo extractivo está a sus anchas. E quindi c'è una chiamata alla sollevazione territoriale perché il modello estrattivo è al suo momento più ampio. Questo fu lo che il golpe permettió, ¿verdad? E questo è stato tutto ciò che è stato permesso dal colpo di Stato. E hicieran bajo ley lo che sempre han hecho sin una ley che les permitiera hacerlo, ¿no? Hanno fatto con il permesso della legge quello che hanno fatto comunque in precedenza, quando non c'era nessuna legge che gli concedeva di farlo. Entonces la ley de escucha, la ley antiterrorista, la ley de minas abiertas, la ley. Tutte queste leggi varate dal governo, la legge antiterrorista, la legge sulla miniera aperta. E per la città, allá non si chiamano città modello, fu perverso, no? Logramos che declararan inconstitucionales la città modello. Costò molto che así se hiciera. Entonces, primero le dieron golpe técnico, ¿verdad?, a la Corte de Magistrados. Solo deja que se volaron a cuatro, dejaron al único que había estado a favor, pusieron otros cuatro y crearon una nueva ley, que es la ley de regiones especiales, régimen. E anche la legge sulle città modello di cui avevamo parlato qualche trasmissione fa, ossia delle zone speciali dove addirittura l'amministrazione, la tenuta dell'ordine venivano affidate dallo Stato alle multinazionali che lì impiantavano le loro fabbriche di assemblaggio, addirittura dopo che erano riusciti a ottenere con una campagna che la Corte Costituzionale dichiarasse non costituzionali le città modello, hanno fatto una nuova legge dove semplicemente cambiavano nome alle città modello chiamandole zone speciali, zone economiche speciali. Noi però purtroppo abbiamo sforato il tempo che ci spetta su questi microfoni. Ora segue Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività. Continueremo a tradurre l'intervista a Carla Laura, la metteremo poi sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Ricordiamo anche in